488. Cicale in umido. Se non vi rincresce di adoperare le unghie, di insudiciarvi le dita e di bucarvi foss'anche le labbra, eccovi un gustoso e piacevole trastullino. Prima di cuocerle, tenete le cicale nell'acqua fresca, che così non iscolano, anzi rigonfiano. Fate un battuto con aglio per semole olio, rosolato che sia. Collocateci le cicale intere e conditele con sale e pepe. Quando avranno preso il condimento, bagnatele con sugo di pomodoro o conserva e servite le sopraffette di pane asciugate al fuoco. Prima di mandarle in tavola, fate loro un'incisione con le forbici lungo il dorso per poterle sbucciare più facilmente.